Savonarola, il frate che scomunicò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari per una società in cui gli oggetti erano pochi e quindi costosi, tanto che più uno era ricco più oggetti aveva e di conseguenza era povero chi ne possedeva pochi, e lette oggi da me per una società in cui gli oggetti sono troppi e quindi costano due soldi, tanto che oggi più uno è ricco meno oggetti ha e di conseguenza è povero chi ne possiede parecchi. D'altra parte, chi perde la roba perde molto, ma chi perde il cuore perde tutto. E comunque, la buona roba non fu mai cara. Serio, capitolo 36. Roma non fa la stupida stasera. Intanto ogni giorno cresceva la potenza degli arrabbiati e i frateschi erano sempre più oppressi. Gli autori del tumulto rimanevano impuniti ed invece molti popolani venivano messi alla fune dagli otto, i quali, creati ad impedire i disordini, erano quelli appunto che li avevano provocati. La signoria inoltre mandò fuori un bando col quale inibiva il predicare ad ogni frate di qualunque ordine si fosse. Il 20 maggio fu poi tenuta una lunga pratica nella quale, mentre si proponeva di cercar modo a ristabilire la pace fra cittadini, si cercava anche di poter cavare da essi il consenso ad un bando d'esilio contro al Savonarola, cosa che non poté riuscire perché subito si vide che avrebbe generato troppo grave e scandaloso odio nel popolo fiorentino. Non per questo gli arrabbiati perdevano animo, essi avevano altre ed assai maggiori speranze. Di giorno in giorno aspettavano l'arrivo della scomunica che il Papa aveva tenuta finora sospesa solo per vedere che risultato avesse il tentativo di Piero de' Medici e forse anche sperava nel fatto dell'ascensione, di cui Mariano da Gennazzano poteva tenerlo in chiaro. Questi, fallita che fu la congiura dei medici, era subito fuggito a Roma, dove trovavasi adesso, e con ogni sua possa incitava il Papa alla rovina del Savonarola, a cui non dava altri nomi che quelli di strumento del diavolo, perdizione del popolo di Firenze e simili. Il Borgia d'altronde non aveva bisogno che fra Mariano gli stilasse odio e veleno nell'anima, ed il fatto dell'ascensione, nel mentre lo adirava sempre più contro alla nuova audacia del frate, gli dimostrava pure quanto fossero deboli in quel momento i seguaci e quanto potenti i nemici di questo. Onde egli pensò essere finalmente venuto il tempo di spedire quel breve di scomunica che già da un pezzo era pronto. Il breve partiva da Roma il giorno 12 maggio, se non che per una singolare ventura del Savonarola sembrava che ogni cosa dovesse concorrere a scemarne l'efficacia. Esso era scritto a guisa di lettera indirizzata ai frati della Santissima Annunziata, quasi che il Papa temesse la solita forma di indirizzo ai credenti in universale. Consegnato poi nelle mani di Giovanni da Camerino, teologo, questo è arrivato a Siena, vi si tratteneva più giorni in forze del procedere oltre. Finalmente, lasciatosi vincere dalla paura che i seguaci del frate lo tagliassero a pezzi, se ne tornò addietro, consegnando ad altri il breve che in questo modo arrivò a Firenze solo verso la fine di maggio. Ed allora molti del clero ricusarono di pubblicarlo per non esservi la presenza del commissario apostolico richiesta dall'uso. Non di meno fu pure affisso nelle chiese principali di ciascun quartiere. Il contenuto del breve o lettera che si voglia dire ai padri serviti non era meno singolare della forma di esso. «Da più persone degne di fede», così diceva il Santo Padre. «Abbiamo inteso come un certo fra Girolamo Savonarola, al presente per quanto si dice vicario di San Marco in Firenze, abbia seminata perniciosa dottrina con scandalo e iattura delle anime semplici. Noi gli comandammo, in virtù di santa obbedienza, che sospendesse le prediche e venisse a noi, onde scusarsi dei suoi errori, ma egli non volle obbedire e ci addusse invece alcune scuse che noi, con troppa benignità, accettammo, sperando che la nostra clemenza dovesse convertirlo. Ma volle persistere sempre nella sua ostinazione, onde con un secondo breve gli comandammo, sotto pena di scomunica, che unisse il convento di San Marco alla congregazione tosco-romana nuovamente da noi creata. Anche allora restò fermo nella sua pertinacia, incorrendo così ipso facto nella censura. E però noi ora vi comandiamo Speriamo che nei dì festivi, alla presenza del popolo, dichiariate esso fra Girolamo scomunicato e come tale doversi tenere da ognuno, perché alle apostoliche munizioni nostre e comandamenti non ha obbedito, e sotto simile pena venga impedito ad ognuno d'aiutarlo, frequentarlo o lodarlo, sia nei detti sia nei fatti, siccome scomunicato e sospetto d'eresia. Dato in Roma il dì 12 maggio 1497. Ma fu solo il giorno 22 giugno che venne finalmente con grande solennità pubblicata la scomunica in Firenze. Tutto il clero, insieme coi frati minori, con quelli di Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spirito, coi monaci neri e i zoccolanti, si radunavano in mezzo alla cattedrale, dove a suono di campanelli e con quattro torchi accesi fu solennemente pronunziato il breve. Dopodiché spensero ogni lume e tutto rimase nel buio e nel silenzio. Sarebbe assai difficile immaginare i discorsi, i disordini, i tumulti che seguirono in Firenze pronunziata che fu la scomunica. Due giorni dopo, 24 giugno, cadeva la festa di San Giovanni e i frati di Sant'Agostino e San Francesco protestavano di non volervi assistere se vi pigliavano parte anche quelli di San Marco. Così, tanto a questi come ai frati di San Domenico di Fiesole fu imposto di tenersi quel giorno chiusi nel convento. L'audacia dei compagnacci, incoraggiata poi da una signoria composta tutta di arrabbiati, non aveva più alcun freno, onde nacque nella città una grande licenza di dire e di fare. Per tutto si sparlava del Savonarola e fu pubblicato un gran numero di sonetti e canzoni anonime, scritti lascivi e frottole invettive contro alla sua dottrina. La notte, quando i frati erano in coro, venivano con le grida, con le canzoni e coi sassi fatte molte ingiurie al convento, e siccome i magistrati lasciavano a queste cose una piena libertà, così ogni giorno si procedeva più oltre e i tristi effetti se ne videro in poco tempo moltiplicati a dismisura. Il malcostume trionfò come per incanto, le chiese erano vuote e invece si frequentavano le bettole. Le donne tiravano fuori i loro abiti osceni, le gioie nascoste, di nuovo ornate con lusso sfoggiante, si mostravano per la città. I giovani profumati ritornavano a cantare i canti carnascialeschi sotto alle finestre delle loro amanti che più non ne arrossivano. In meno di un mese sembravano tornati i giorni di Lorenzo il Magnifico. Ogni pensiero della patria e della libertà era dimenticato. Tali furono le prime conseguenze prodotte dal breve di Papa Alessandro Borgia. Ma il governo fiorentino girava per una serie di mutamenti continui, onde presto le cose si trovarono in altre mani. La signoria di luglio e aprile risultò favorevole al Savonarola e fin dai primi giorni del suo ufficio incominciava pratiche a Roma per ottenere la revoca della scomunica. Il Papa sembrava volesse commettere quella dottrina all'esame di sei cardinali e la signoria, fin dal 2 luglio, scriveva all'oratore Alessandro Bracci perché appoggiasse e favorisse questa idea, pensando che non vi si potrebbe trovar nulla a ridire. E così continuava per tutto l'anno una corrispondenza caldissima della Repubblica in difesa del Savonarola, essendo egli aiutato dalla fortuna con varie signorie tutte favorevoli e col magistrato dei Dieci sempre a lui devotissimo. Messer Alessandro Bracci, oratore a Roma, secondava questi uffici con tutto il suo buon animo e guadagnava in favore di quella causa i cardinali di Perugia, di Benevento e di Capaccio. Sollecitava quello di Napoli, che s'era sempre dimostrato caldo amico di San Marco, si valeva dell'opera di Giorgio Benigno e di Giovanni Nasi, che dimoravano allora in Roma e che, tanto con la parola come con la penna, erano stati sempre difensori del Savonarola. E mentre che da tutti i lati, non senza qualche buona speranza, si cercava temperare lo sdegno del Papa e piegare a benignità l'animo suo, una singolare offerta veniva fatta al Savonarola. Il Cardinal di Siena gli faceva sapere che se venisse pagata a un tal suo creditore la somma di 5.000 scudi, egli avrebbe fatto ritirare la censura. Il caso non era nuovo né strano, perché a Roma si mercanteggiava allora ogni cosa, ma il Savonarola, come ognuno può credere, respinse sdegnosamente l'impudente offerta. In questo mezzo seguiva una di quelle atrocissime tragedie con cui la famiglia dei Borgia sapeva empire d'orrore quel secolo, che fu pure uno scandalo nella storia del genere umano. Il duca di Candia, figlio primogenito del Papa, veniva di notte pugnalato e gettato nel Tevere. L'autore del delitto era stato suo fratello, il cardinal di Valenza, mosso da gelosia, d'osceno amore per la sorella Lucrezia e da una sfrenata ambizione di potere che non sapeva tollerar compagna alle sue mire. L'atroce e inaudito fatto commosse di profondo dolore perfino le viscere d'Alessandro Borgia, il quale, per la prima e unica volta in sua vita, sembrò pentito dei molti falli e deciso di emendarli. Egli già s'era chiuso in una stretta solitudine e aveva scelto una commissione di cardinali per riparare ai tanti mali che allora travagliavano e desolavano la Chiesa. ma furono brevi e fugaci momenti. Il Borgia ritornava subito alla scandalosa vita con più impeto che mai. Comunque sia di ciò, se la signoria e il Savonarola lavoravano per un verso, non mancavano certamente quelli che si adoperavano in senso contrario. Così gli arrabbiati avevano mandato a Roma una sottoscrizione firmata da molti di loro, nella quale ripetevano le solite accuse contro al frate, il che, risaputo sia a Firenze per mezzo dell'ambasciatore, ne furono subito cominciate altre due in favore del Savonarola. La prima di esse era segnata da tutti i 250 frati del convento, i quali, lodando la vita e la dottrina del loro priore, supplicavano il Santo Padre perché togliesse le censure e aiutasse la santa impresa, che ne avrebbe avuto merito a podio. A questa seguiva un'altra sottoscrizione, la quale, riconfermando le stesse cose, era segnata da un gran numero dei principali cittadini. Incominciata nel luglio, vi si erano in poco tempo raccolte 363 firme e si procedeva ancora più oltre quando la peste, crescendo minacciosamente, interruppe quasi ogni faccenda in Firenze. Morivano già da 50 a 70 persone al giorno, il che, sebbene fosse tenuto allora piccolo numero, era non di meno segno assai minaccioso di mali maggiori, considerata specialmente la gran moltitudine che si trovava allora stivata nella città. Ognuno fuggiva alle ville e lo spavento cominciava a essere universale, ma se tutti abbandonavano la città e le faccende, per il Savonarola invece cominciavano, come ognuno può immaginarsi, occupazioni nuove e più gravi. Il suo ministero gli imponeva ad adoperarsi nella comune sventura a soccorrere e confortare gli afflitti. Sebbene la scomunica gli impedisse di andare attorno a prestare i sacri uffici, ognuno può comprendere come egli avesse assai grave faccenda alle mani quando penserà che a lui era affidata la cura di 250 frati, la più parte dei quali novizi e tutti chiusi in un solo convento, dove, senza efficaci provvedimenti, il contagio avrebbe potuto fare strage grandissima. Infatti, non andò guari che un frate s'ammalò, onde la peste e lo spavento erano già entrati in San Marco. I più timidi volevano fuggire, altri consigliavano al Savonarola di mettersi in salvo, alcuni cittadini gli offerivano le loro ville, ma esso comprendeva troppo bene qual era il suo dovere in quei gravi momenti. Profittò delle ricevute offerte per mandare in campagna i novizi e i più giovani frati, tra i quali suo fratello Aurelio. Così venne diradato il convento, dove egli restò coi più fedeli e sperimentati seguaci. Fortunatamente il pericolo fu minore di quello che non si temeva. Al principio d'agosto la peste cominciava già sensibilmente a scemare e verso la metà del mese era quasi del tutto cessata. I cittadini ritornavano dalle ville a ripigliare le usate faccende. Il convento di San Marco si apriva nuovamente al popolo e il 15 del mese si celebrava nel secondo chiostro la festa della Madonna, con un pubblico e solenne rendimento di grazie per il pericolo scampato. La città ripigliava l'aspetto usato e ognuno, dopo l'agitazione e i pericoli di quell'anno, desiderava trovare finalmente calma e tranquillità.